Il gastronauta di Davide Paolini. Noi oggi partiremo da questo momento a parlare di vino in particolare, di vino che magari non se ne parla mai, perché si parla sempre appunto di vini di grandissima qualità, di vini pregiatissimi, di graduatorie della qualità, ma mai si parla così anche di dati di diffusione del vino o di vendite del vino. Bene, è uscita nei giorni scorsi una graduatoria a livello mondiale che è stata un po' anche così, se vogliamo, interpretata male, perché molti hanno parlato di dati offerti da Wine Spectator, questa grande rivista americana. In realtà non è così, i dati si trovano in un rapporto molto interessante sul vino a livello mondiale, con altre cose anche abbastanza curiose, e in questa graduatoria appunto ci sono i vini più venduti nel mondo con delle cifre molto importanti. Al primo posto Franzia, che magari è sconosciuto in Italia, che appartiene alla Wine Group e vende 24 milioni di casse di vino, ma casse di vino che sui dati che sono apparsi in Italia si parla di 12 litri, in realtà qui si parla di 9 litri, quindi una cosa un po' leggermente diversa, ma più o meno i dati rimangono quelli. E al secondo posto c'è Martini Rossi, appunto, che appartiene ora, non è più italiana, ma alla Bacardi. Sicuramente i dati di Martini riguardano soprattutto gli spumanti. Al terzo posto un marchio italiano che si chiama Carlo Rossi, ma in realtà appartiene alla Gallo Winery, e che la Gallo Winery è presente anche con un altro marchio appunto in questa graduatoria. Al quarto posto il Tavernello appunto è marchio italiano. Al quinto posto Yellowtail è un fenomeno australiano di cui magari ne parleremo, perché è presente anche nel mercato italiano. Allora, di fronte a queste cifre viene da chiedersi, tra l'altro i dati che sono contenuti in questo rapporto dicono che il consumo mondiale sta calando, viene da chiedersi se il boom di questi vini, questa grande presenza nel mondo, perché dai dati anche del Tavernello, il Tavernello esporta anche in Germania, Giappone, Russia, Norvegia, Svizzera, Repubblica Ceca e Taiwan, viene da chiedersi se c'è una corsa al vino che costa meno, quindi sicuramente anche la crisi influisce su questo, e quale qualità di questo vino, cioè questo vino che viene sempre, diciamo, questi vini vengono sempre un po' dimenticati da tutti, ma la qualità è veramente così scadente, oppure è cominciato a crescere e quindi c'è un rapporto qualità-prezzo che invoglia i consumatori, oppure anche i consumatori sono meno interessati al vino di qualità e cercano di spendere meno. Bene, una serie di interrogativi che così ne discuteremo con alcuni critici importanti, con alcuni produttori, e io do inizio a questo, do la parola a Carlo Cambi, giornalista e sicuramente uno che di solito interviene anche pesantemente sulle questioni che riguardano il vino e il cibo. Buongiorno Carlo. Buongiorno Davide e buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Ecco, io volevo chiederti un parere a te. Secondo te questo grande boom di questi vini dipende solo dal prezzo basso rispetto agli altri? No, dipende dal fatto che abbiamo di fatto spaccato a metà il consumo del vino. Da un parte c'è il vino inteso come consumo edonistico, come consumo relazionale, come consumo culturale, con tutte le cose che abbiamo scritto, detto, celebrato in questi anni. Dall'altra c'è la gente che beve il vino semplicemente come una bevanda per il pasto. E sul Tavernello mi ricordo i tempi della DC, non trovavi mai nessuno che votasse democristiano, e poi la DC aveva il 38% dei voti, e così il Tavernello, non trovi mai nessuno che beve Tavernello, ma in realtà poi vai a vedere le classifiche di vendita e accorgi il fenomeno è quello. Io credo che ci sia un effetto crisi sicuramente, perché il consumatore ovviamente non può spendere 15-20 euro tutti i giorni per bere vino, ma c'è anche un effetto comodità, nel senso che il Tetra Pak lo immagazzini bene, te lo tieni in casa, vai al supermercato, lo compri con nonchalance, non ci sono timori, tremori, titubanze, non c'è problema di pagamento. Quanto alla qualità, che è il problema che tu ponevi, è chiaro che siamo di fronte a dei vini che hanno uno standard, sono lavorati molto in azienda e quindi non in vigna, ma non sono vini che fanno male, sicuramente non sono i vini dei quali siamo abituati a parlare in termini di critica enologica. Sono bevande d'uva. Bene, bene, grazie Carlo. Il discorso che tutti dicono di non berlo e poi si vedono queste graduatorie sicuramente è un fatto che fa riflettere. Vorrei ricordare che succede anche con altri prodotti, ad esempio con i surgelati, che tutti dicono di usare prodotti tipici o d'altro, poi si vanno a vedere le statistiche, i dati di vendita e si vede che purtroppo molti di questi prodotti non sono consumati, ma ne sono consumati tutt'altro. Voglio ricordare numero verde 800 24 00 24, sms 49238 6666, perché sicuramente credo che sia un argomento che interessa anche i consumatori che sono a casa. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di vini, di questi grandi vini venduti in milioni, miliardi di bottiglie, di brick, di tetrapack, di cui tutti dicono di non berli, poi in realtà si vede questi dati e invece vengono bevuti e come. Io magari invito, se c'è qualche radioascoltatore che è abituato o beve magari qualche volta questi vini, magari che ci chiami anche e ci racconti il perché. Se è semplicemente un fatto di prezzo oppure se apprezzano anche questi vini. Devo dire che già è arrivato un messaggio dal nostro radioascoltatore: basterebbe rendere veramente trasparente gli ingredienti di questi beveroni per rivoluzionare questa classifica, Fabio. Bene, questo mi sembra già, così come posso dire, un fatto sul quale discutere. Allora, ricordo ancora 800 24 00 24, discutiamone su questo, ma diciamo che continuiamo anche a parlarne con i nostri ospiti e abbiamo con noi, sentiamo un radioascoltatore, Paolo da Milano. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno Davide. Senti, no, intervenivo in quanto proprio io ho aperto la sua trasmissione parlando del tavernello, così, che secondo me può essere accettabile un discorso di prezzo basso, un prezzo conveniente col tavernello, in quanto c'è un tetrapack, c'è un discorso probabilmente di confezionamento che può ridurre le spese anche per loro. Quello che mi piacerebbe che qualcuno mi desse così una risposta. Per quanto riguarda tutti i vini che vengono dal Cile, dall'Australia, che arrivano in bottiglia, che troviamo al supermercato sempre a dei prezzi molto bassi, e con i prezzi che hanno la produzione, con i prezzi che hanno perlomeno l'imbottigliatura, la bottiglia, il tappo, tutte queste cose, non mi spiego molto sulla qualità del contenuto, perché a quei prezzi lì forse si pagano giusto la bottiglia. Bene, grazie Paolo, grazie di questa, diciamo, di questo quesito. Allora abbiamo con noi Paolo Lauciani dell'Ice Bibenda di Roma, un grande esperto, a cui magari possiamo anche girare subito questa domanda che ha sentito. Buongiorno Paolo. Buongiorno Davide, buongiorno ai radioascoltatori. Hai sentito questo quesito del nostro radioascoltatore? Sì, ho sentito. Infatti il fenomeno dei vini a basso costo è di carattere mondiale, come la classifica di Wine Spectator ha dimostrato. Ecco, non è una classifica di Wine Spectator, attenzione, questa classifica è stata erroneamente imputata a Wine Spectator. Questo qui è un report mondiale fatto da Impact Data Bank ed è veramente, io ho il documento sotto mano, sono la ventina di pagine che c'è un'analisi veramente fantastica del mercato mondiale. Quindi è un'indagine fatta da una società di ricerca di mercato. Prego. Sì. E il discorso è che, è vero, parlando del Cile, anche in parte dell'Australia i costi di produzione sono sensibilmente più bassi rispetto ai nostri, però anche a casa nostra spesso c'è da chiedersi che cosa mettano nella bottiglia, visto invece i costi decisamente diversi che abbiamo. Io ritengo che non sia poi una qualità assolutamente pessima, sempre perlomeno, quella dei vini a basso costo e persino dei vini in tetrapack. Noi su Bibenda lo scorso anno abbiamo fatto una degustazione tecnica secondo i crismi che applichiamo alle etichette migliori del mondo e migliori d'Italia, e è risultato che alcuni di questi vini spesso sono perlomeno in linea con una produzione media di vini regolarmente venduti in bottiglia. Quindi tu dici, insomma, bisogna andarci piano con i giudizi che vengono fatti sui vini a basso costo, bisogna sicuramente degustarli. Ecco, ma cosa ne pensi di un radioascoltatore che chiede, appunto, bisognerebbe rendere trasparente gli ingredienti, ma gli ingredienti sono l'uva, a meno che non vengano usati altri sistemi. Questo dice, basterebbe rendere veramente trasparente gli ingredienti di questi beveroni per rivoluzionare questa graduatoria. Tu cosa ne pensi? Molti chiedono di mettere in etichettatura cosa contiene il vino, ma il vino al di là dell'uva non dovrebbe contenere nient'altro, se non erro. Sì, diciamo che forse l'ingrediente a minor costo del vino è proprio l'uva, o perlomeno dovrebbe essere l'uva. Il discorso forse si potrebbe estendere a un'immagine che si sta trasmettendo sui vini di alta qualità e soprattutto legati ad alcuni personaggi che stanno accentrando un pochino l'attenzione della critica e del pubblico. Parlo di winemaker, parlo di uomini magici del vino, e forse il vino in tetrapack, con il discorso della presunta genuinità del 100% italiano sulla sanità del prodotto, sta facendo leva su alcune fette di mercato che temono un pochino queste bottiglie come prodotto magari di qualche malcelata sofisticazione. Bene, rimani con noi, sentiamo Mario da Milano, radioascoltatore. Buongiorno Mario. Buongiorno Davide, io volevo dire una cosa molto veloce. Noi siamo bevitori di vino, buon vino, ma non rinunciamo a comprare grosse scorte in tetrapack e farci da mangiare. Quindi usa questi vini per cucinare, così? Assolutamente sì. Bene. A un prezzo molto conveniente, è inutile andare a spendere soldi per bottiglie buone che beviamo. Quindi lei dice lo stracotto al Barolo, perché farlo col Barolo lo facciamo con lo stracotto vino. Al Barolo no, però magari la fettina fatta col vino bianco preferisco farla con il Tavernello. Bene, grazie Mario da Milano. Torniamo a Carlo Cambi. Carlo, ma tu cosa ne pensi che tutti questi vini vengono sempre trascurati? Ha detto Lauciani che loro su Bibenda hanno fatto diciamo delle degustazioni, ma succede rarissime volte questo. Sì, succede rarissime volte, secondo me è un errore soprattutto da parte dei produttori di alta qualità, che non conoscendo i loro concorrenti non possono capire quali sono le loro logiche. Fammi dire una cosa però, questi vini sono gli unici che fanno marketing diretto sul consumatore, eh? Cioè tutta la prosopopea che noi ci abbiamo messo nel passare attraverso le guide, le degustazioni, i festival sui vini di qualità, stiamo sempre ragionando dell'apice del mercato, ma la base del mercato del vino è stato abbandonato in termini di relazione col consumatore, e gli unici che fanno relazione col consumatore sono i produttori di questi vini di grandissima quantità. Ora, volevo dire una cosa a quel tuo ascoltatore del Beveroni. Guardate che il problema di questi vini non è cosa c'è dentro, casomai è come sono lavorati, come vengono stabilizzati, se sono pastorizzati, ma il problema di partire dall'uva proprio non c'è, perlomeno non c'è per quelli italiani, quindi sono sicuramente vini. Poi il ragionamento è, sono vini che servono a che cosa? Servono a bere, punto e basta. E credo che se noi semplificassimo molto l'immagine anche dei vini di qualità, li rendessimo più confidenti al consumatore, probabilmente il consumatore sarebbe più indotto a consumarli con minore timore, perché il ragionamento rimane questo: noi abbiamo costruito una comunicazione del vino che è autoreferenziale ed escludente del consumatore, se non nell'apice, diciamo così, degli appassionati, degli intenditori, ma c'è una platea di 30 milioni di consumatori assolutamente trascurata, e è talmente trascurata che poi ci meravigliamo che questi comprano il Tetrabic, che non fa assolutamente male, ma certo non ha livelli di suggestione così alti come le bottiglie importanti. Ultima cosa, e poi mi taccio, i prezzi, i produttori hanno spinto troppo in alto i prezzi per pagarsi delle spese di marketing che non sono efficaci, ed è ovvio che hanno spaccato il mercato in questa maniera. Quindi se i vini in bottiglia di buona qualità tornassero a prezzi ragionevoli, probabilmente si riaprirebbe una concorrenza. Insomma, abbiamo lasciato campo libero sulla massa del consumo a Tetrabric. Grazie a Carlo Cambi, ringrazio anche Paolo Lauciani. Sentiamo ora Michele da Monza, un radioascoltatore. Sì, buongiorno. Sono un consumatore di vino, e quindi voglio dire, con l'evoluzione che c'è stata in Italia del vino, ci si è fatto anche un certo palato alla qualità. Devo dire che comunque io compro regolarmente questo tipo di vino, non per berlo chiaramente, ma ad uso culinario. Quindi, perché per cucinare trovo che sia ottimo, migliore anche certe volte a certi vini che si trovano sul banco del supermercato, insomma, certamente come consumatore so benissimo che cosa ho di fronte e che tipo di qualità mi trovo, come spesso mi trovo davanti a delle bottiglie di vino che andrebbero bene, che non andrebbero bene neanche per fare l'aceto. Bene, grazie, grazie, grazie, molto chiaro. Sentiamo Claudio dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Claudio. Buongiorno Davide. Senta, io volevo domandare una cosa. Negli ultimi anni sono fiorite, almeno dalle nostre parti, un sacco di rivendite di vino sfuso, addirittura ho sentito dei franchising, però il prezzo mi sembra molto basso, 1,10 euro, 1,20 euro. Volevo sapere se sono affidabili, insomma, se pensi che questi vini possano... Guardi, caro Claudio, che se 1,20 costano sempre di più di certi vini che si trovano in giro in certi negozi a 0,87, 0,90, 1 euro. Quindi se si possono considerare, diciamo, da acquistare quelli sotto 1 euro, imbottigliati con tanto di etichetta, si figuri se 1,20 euro, se sono affidabili gli altri, sono affidabili anche questo. Bene, abbiamo con noi Sandro Cavicchioli. Buongiorno Sandro. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi Sandro, anche se ho un messaggio che mi dice il Lambrusco è un ottimo vino economico, un radioascoltatore, non voglio parlare con te di Lambrusco, voglio parlare di Yellowtail, perché tu sei il distributore in Italia di Yellowtail, che è il quinto vino più venduto al mondo. Ecco, mi dici, quanto costa al consumatore Yellowtail in Italia? In Italia una bottiglia che viaggia dai 4,50 ai 6 euro, dipende dal canale di distribuzione. Quindi non è neppure poco, insomma, cioè per raggiungere queste cifre? In Italia ha un discreto posizionamento, in quanto sono state selezionate delle tipologie di alta qualità per questo mercato. Quindi diciamo che i dati così enormi di Yellowtail vanno verso il mercato americano, verso gli altri mercati, dove sicuramente costerà molto meno, penso, perché è in bottiglia e quindi è distribuito in questa maniera. Sì, in genere in Europa è distribuito sui 3 euro e sugli Stati Uniti di conseguenza, ecco, in dollari non ve lo so dire. Comunque 0,720, quindi diciamo che è un ottimo, cioè il prezzo non è poi così basso come si potrebbe pensare, insomma, per un numero così alto di bottiglie. Ecco, come si spiega il successo allora di questo vino australiano, di questa azienda australiana? Beh, i contorni di questo successo non sono ancora stati definiti totalmente, tant'è che è risultato uno dei maggiori successi di marketing moderno sui prodotti di largo consumo ed è anche stato riportato recentemente su un testo, su un libro di valenza mondiale per questo fenomeno. Di sicuro ha riportato quei valori positivi di territorio che ha trasmesso l'Australia, di colori, sono state adeguate le comunicazioni di etichetta attraverso proprio gli effetti cromatici, il canguro e anche lo stile moderno per un consumatore moderno, senza intaccare la naturalità del vino, che è un vino, non dimentichiamo, sempre prodotto nelle aree, in zone veramente vocate per la produzione di vino. Quindi diciamo che è un successo a 360 gradi, insomma, questo non è solamente un successo di marketing, tu dici? Non è solo un successo di marketing, e non dimentichiamo intanto che i Casella sono italiani, sono di origine siciliana, i genitori di Casella parlano costantemente l'italiano, e per cui conoscono bene il vino, conoscono bene la tradizionalità del vino. Dobbiamo pensare che in Australia si sono potuti muovere i Casella su delle regole anche un po' diverse dalle nostre, cioè con mentalità e approcci completamente diversi. Sono arrivati a produrre una bevanda vino, come ha detto bene prima Carlo Cambi, una bevanda vino per tutto il mondo, senza preoccuparsi poi di fare una grossa comunicazione territoriale, in quanto già l'Australia comunicava di per sé. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di vini, chiamiamoli così, di largo consumo, di vini soprattutto venduti nella grande distribuzione. Bene, abbiamo tantissimi sms, moltissime telefonate. Sentiamo velocemente Daniele da Milano. Buongiorno Daniele. Buongiorno, volevo semplicemente portarvi la mia testimonianza. Recentemente ho avuto l'opportunità di provare una visita da un piccolo produttore che fa sia produzione di bottiglie poi da vendere normalmente che vini in bricco per la grande distribuzione. e mi ha colpito il fatto che la cura, il controllo e l'igiene che viene messa nella produzione dell'uno e dell'altro è assolutamente identica. Quindi al di là del gusto mi sento di dire che rispetto agli anni, e forse se lo ricorderanno la generazione dei miei genitori, rispetto agli anni del vino al metanolo, i passi sono stati veramente enormi. Bene, grazie per la sua testimonianza Daniele. Ora abbiamo con noi Marco Sabellico, coordinatore nazionale della Guida Vini d'Italia. Buongiorno Marco. Buongiorno, ciao. Ciao. Marco, volevo chiederti questo. Secondo te, che sei appunto un degustatore allenato ogni giorno a degustare centinaia di vini. Mi hai appena interrotto. Cioè, appunto, lo sapevo questo. Ma ti ho interrotto così almeno lasci un po' così un mondo per passare a un altro. Volevo chiedere, secondo te questi vini, diciamo che io ho chiamato di largo consumo, il Tavernet, esatto, ma anche lo Yellowtail, e poi nella graduatoria mondiale ci sono tutti i vini di Gallo ed altro. Il successo, il mass market, di questi vini dipende dal marketing, dal servizio, dalla bravura, oppure c'è anche qualcosa dentro il vino che ne vale la pena? Guarda, sono vini pensati per un mercato globale, quindi che devono piacere ai consumatori di tutto il mondo. Quindi al di là della ricerca dei valori del terroir, si va su gli elementi basic, gli elementi più semplici. Sono vini, innanzitutto la loro prima dote è l'affidabilità, la correttezza formale, insomma. Tu puoi comprarne una bottiglia un giorno a New York, un giorno a Londra, un giorno a Roma e sei tranquillo che comunque trovi dentro quel vino, insomma. Per noi addetti ai lavori non sono emozioni indimenticabili, però diciamo ad un prezzo molto contenuto tu hai un bicchiere di vino che anche esprime una certa piacevolezza. Sono vini studiati a tavolino, morbidi, fruttati, abbastanza semplici, però impeccabili nella loro costruzione stilistica, insomma. Quindi non dobbiamo aspettarci emozioni indimenticabili, però un prodotto costante, affidabile, sicuro, ben distribuito, a volte anche come ecco Yellowtail, con una bella immagine, con un'operazione di marketing ammiccante, evocativa, insomma. D'altra parte il mondo dell'industria del beverage, del bere globale, richiede prodotti di un certo livello. Non siamo mica tutti stupidi, se ci dessero da bere delle porcherie, insomma, copriremo una volta sola. Quindi sono vini anche ben fatti, insomma, nella loro fascia di prezzo, insomma. Bene, ti ringrazio, grazie del tuo intervento, grazie a Marco Sabellico, ti rimando alle tue degustazioni visto che ti ho interrotto, grazie, a presto. Sentiamo Franco da Vicenza, un radioascoltatore. Buongiorno Franco. Buongiorno, io sono un produttore oltre che uno che fa parte di un gruppo di degustazione, e la settimana scorsa mi è capitato di passare per il supermercato e ho visto un vino che di solito viene venduto a 8-10 euro in enoteca, era venduto a 89 centesimi, tra l'altro era di una cantina molto famosa che è Avignonesi, era il Bianco Toscana, del 2004 fra l'altro. Ho provato a comprarne una bottiglia e quello che ho trovato dentro non, è meglio che soprassedere cos'era quel vino lì. Allora a questo punto è meglio comprare un Tavernello che non sarà niente, che sai che non sarà niente, che comprare una bottiglia magari di una cantina famosa, però comunque a quei prezzi lì io non capisco come una cantina anche con quel nome lì possa mettere in commercio, magari sulla grande distribuzione, però a certi prodotti. Si sentiva proprio che era un vino alterato, che aveva subito qualcosa. Bene. Non è possibile, secondo me. Grazie Franco, io dico sempre che il telefono 800 24 00 24 è aperto, quindi se c'è qualche rappresentante dell'azienda che è stata citata e vuole intervenire, può farlo con molta libertà. Bene, abbiamo con noi ora il presidente di Caviro. Caviro è la cooperativa che possiede appunto il marchio Tavernello, che mi sembra abbia compiuto 25 anni. Buongiorno secondo Ricci. Buongiorno, buongiorno. Ricci, io le faccio una prima domanda che è un po' provocatoria, ma non tanto. Abbiamo sentito molti radioascoltatori che sono intervenuti e poi ho una decina di SMS che mi dicono sì, io il Tavernello lo compro, e come, anche spesso per usare in cucina. Lei questa battuta le fa male oppure dice beh, tanto vendiamo? Beh, questo è stata la nostra fortuna all'inizio, la cucina. È stata la nostra, quando siamo partiti 25 anni fa, il grosso, diciamo, che ci ha permesso di lanciare il cartone o il brick è stata il consumo in cucina, la praticità e il consumo in cucina. Quindi io non, sono contento che venga usato anche in cucina, però nessuno dice che lo usi in cucina ma dopo lo mette anche in tavola, però. E quindi questa è la cosa che mi fa piacere. Sì, ma infatti Carlo Cambi all'inizio ha detto che, visto i dati di vendita, probabilmente succede come tanti anni fa, che nessuno votava DC, però la DC era al 38%. Io lo dico a proposito dei surgelati, e non voglio fare nomi di alcuni surgelati famosi, di alcune paste famose. Ho visto un articolo questi giorni, no, che paragona il risultato di Tavernello a Berlusconi, no? Dice nessuno lo vota, però lui ha tanti voti, no? Bene, Tavernello sì. Nessuno lo conta. Sì, ma così succede, come dicevo, con, faccio anche il nome, quattro salti in padella, i sofficini e tanti altri, succede anche questo. Rimanga con noi, sentiamo Paolo da Roma. Buongiorno, okay. Paolo. Io per 60 anni l'ho fatto e venduto il vino. Sì. E adesso ho lasciato l'attività. Il Tavernello devo dire che è buono, perché poi c'è un piccolo segreto che tutti dovrebbero conoscere: il vino, dopo qualche giorno che è aperto, se diventa aceto vuol dire che è buono. Invece certi vini che si trovano in giro in certi posti non diventano aceto e sono di un pessimo sapore dopo qualche tempo. Noi adesso stiamo bevendo del vino preso in negozio vicino a casa, 75 centesimi, c'è tanto di ingredienti e c'è scritto pure che c'è il solfito, il bisolfito, ma a me non mi interessa, perché un po' lo beviamo, un po' lo uciniamo. Quindi poi diventa aceto, insomma. Il vino quando è buono diventa aceto dopo 15 giorni che è aperto. Quindi io ritorno a secondo Ricci, abbiamo trovato una seconda via di marketing, oltre l'uso in cucina c'è anche l'aceto. Cosa vuole di più dalla vita, Ricci? Sì, poi c'è una prova da fare. Basta mettere nella bottiglia o nel pacco un po' di spaghetti, 2-3 spaghetti, dopo 3 giorni, 5 giorni diventa aceto. Bene, grazie Paolo. Comunque, torniamo, abbiamo con noi ora anche Stefano Miglioni. Bene, Stefano Miglioni è un personaggio importante nel mondo del vino, perché credo sia colui che così spazia a 360 gradi da molti anni. E allora, siccome spesso anche in passato, tanti anni, in momenti insospettati abbiamo parlato di questi vini, volevo chiedere, Stefano, ma il successo di questi vini, Yellowtail, Tavernello e tanti altri, Gallo, secondo te, te lo ripeto, a livello mondiale dipende solo dal prezzo? No, perché in questa classifica noi abbiamo vini estremamente eterogenei, non possiamo pensare che il secondo in classifica, che è Martini, sia uno di basso prezzo. Andiamola a comprare e troviamo sempre bottiglie di prezzo abbastanza elevato. Ma anche Yellowtail mi sembra che costi 6 euro. Yellowtail è uscito sul mercato americano tra 6 e 7 dollari e qui gira sui 6 euro, che è la cifra massima che da una ricerca italiana è disposto a spendere un consumatore medio italiano quando vuole bere bene. Quindi si colloca idealmente in una fascia alta. E poi sono vini che vengono venduti in maniera diversa, perché Franzia è un bag in box, cioè è una sacca di polietilene o qualcosa del genere da cui si spilla il vino. Il Tavernello è un Tetra Pak. Quello di Carlo Rossi, che è un vino venduto in confezioni di vetro grosse da 4 litri, quelle che nei nostri supermercati si chiamano dame. Quindi abbiamo veramente poi vorrei dire un'altra cosa: tutti questi 10 fanno il 4,4% dei consumi mondiali, cioè sono l'anticamera di un mondo dove c'è veramente di tutto e anche il peggio di tutto. Noi ci dobbiamo ricordare che la massima parte dei consumi italiani sono di vini autoconsumati o ceduti da autoproduttori. Sì. Lì veramente la qualità rispetto a Franzia o a Tavernello è abissale in termini negativi, cioè questi sono veramente l'elite dell'enologia al confronto di ciò che si beve mediamente nelle case italiane. Ma volevo aggiungere che, oltre a questa graduatoria, io appunto ho in mano questo rapporto, c'è cioè la graduatoria per fatturato. Uh-huh. Ci sono di queste 10 diciamo marchi, cioè dentro ci sono quasi tutti nei primi 10 per fatturato a livello mondiale. Quindi è un altro, cioè un discorso anche importante dal punto di vista, non sono solamente bottiglie vendute, ma sono anche fatturati importantissimi. Quindi... Certo, questo è importante. Comunque questi 10 corrono appresso a pubblici diversi, cioè il bag in box, benché il prodotto sia molto meglio di quello che si aspetta il loro consumatore, che corrono appresso a a chi entra nel consumo del vino o che ha un profilo vecchio del consumo del vino, che cerca anche quella componente, quel 10% che è fatto di alcol e molto meno quelle altre cose che cerchiamo noi quando andiamo a bere il vino, i sapori, il territorio, eccetera, eccetera. A questi non gliene importa assolutamente niente del territorio, chi va a comprare una bottiglia di questo tipo. È il vecchio consumatore, ma questo vuol dire anche i nuovi consumatori dei nuovi mondi, cioè dell'est che si affaccia al vino, eccetera, eccetera, che cercano quello che hanno cercato i greci, i romani, per 2000-3000 anni, cioè quel quid che ti fa star meglio, ti rende allegro, ti dà il coraggio di fare una mazza e cose di questo genere. È un modo di bere vecchio che ha milioni, decine, centinaia di milioni di clienti ancora, i quali poi passeranno a qualcosa di successivo. Grazie a Stefano Miglioni, ti ringrazio e ti saluto. Il gastronauta. Bene, continuiamo a parlare di vini, abbiamo chiamato di mass market, siamo pieni di telefonate, Stefano dalla provincia di Piacenza, Emiliano da Brescia, Paolo dalla provincia di Cremona. Bene, cominciamo da Paolo dalla provincia di Cremona, brevissimo Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno Davide, mi sente? Sì, bene, bene, dica. Io sono un piccolo distributore di vino, volevo dirle che pur non essendo in zona di produzione, andando a rifornirci nella vicina Emilia Romagna, riusciamo a proporre ai nostri clienti degli ottimi vini da pasto, da tavola, chiamiamoli così, che vanno da 1,30 euro a 1,80 euro, 10,5 gradi, 11 gradi. Quindi il mio appello era questo ai consumatori, che diciamo, se avessero la voglia, la costanza, anche il piacere di andare a scoprire le piccole cantine, stare sul posto e assaggiare i prodotti che vendono, è possibile rifornirsi di prodotti genuini. Sicuramente qualcuno raccoglierà il suo appello. Abbiamo con noi anche Gigi Piumatti, che è responsabile del settore vino Slow Food. Buongiorno Gigi. Ciao, tutto bene? Bene. Gigi, tu hai mai fatto degustazioni su questi grandi vini da mass market? Di mass market, quindi Yellowtail, Tavernello ed altri. Sì, sì, li abbiamo fatti, abbiamo provato a gustarli e soprattutto ogni tanto anche nelle nostre manifestazioni, quando facciamo i laboratori del gusto, ogni tanto proviamo, quando facciamo delle degustazioni alla cieca, a mettere alcuni di questi vini. E ci dai i risultati? Cioè, cosa succede quindi? Ma sono cose un po' particolari, nel senso che ad esempio so che si parla di Tavernello, che ha avuto questo grande successo. Diciamo che è un vino che sicuramente dal punto di vista tecnico è ben fatto, poi non ha queste peculiarità che magari un degustatore più fine vuole cercare. Mentre Yellowtail è già un progetto diverso, per cui è un vino che ha anche delle caratteristiche, cioè è modulato per avere delle caratteristiche diverse sicuramente da un Tavernello, anche se il prezzo non è di quelli più cari che ci sono in Australia. Ecco. Bene, guarda, hai parlato dell'Australia, abbiamo con noi, rimani in linea, Piero Tantini che ci parla da Sydney. Piero Tantini è un esperto di vino che aveva fondato a Bologna un grande wine bar, poi ha deciso di andare in Australia proprio per l'amore per i vini. Buongiorno Piero, anzi buonasera. Ciao, Piero. Davide, buongiorno. Sì, buonasera per me, buongiorno a tutti voi. Senti, volevo chiederti, Yellowtail quanto costa in Australia? Yellowtail costa sugli scaffali praticamente quello che costa in Italia, l'equivalente di 6 euro. Quindi questo sì, è un grande successo anche in terra madre? Sì, diciamo che l'azienda che produce Casella è una potenza, è l'azienda, come dire, di famiglia, cioè l'azienda privata più grande d'Australia, quindi parliamo di volumi veramente elevatissimi, ha un'ottima reputazione ed è distribuito piuttosto capillarmente anche qua, sì, funziona molto bene. Oltretutto è un classico caso in cui si vede la capacità delle aziende australiane di pescare nei trend, quindi adesso Yellowtail è uscito con una bollicina e, cosa piuttosto sorprendente, è uscito con un moscato qua. Quindi un moscato dolce? Sì, sì, sì, un po' di anidride carbonica, leggermente frizzante e un vino dolce, sì. Ma è considerato in Australia un vino da mass market o un vino medio, diciamo? È considerato, sì, è difficile operare questa distinzione perché qui in Australia non è così presente quel fattore distintivo fra una presenza nella grande distribuzione e che in Italia è sempre stata piuttosto mal vista. Qui è molto normale che tu vada in un ristorante e ti venga servito un vino che puoi andare a prendere a un prezzo decisamente più basso in un bottle shop, cioè in un'enoteca o in supermercato. Quindi non c'è questo grosso problema di immagine, è considerato un vino medio. Bene, grazie. Come qualità, secondo me lo è. Grazie Piero, rimani con noi. Sentiamo Emiliano da Brescia, un radioascoltatore. Buongiorno Emiliano, veloce per cortesia. Buongiorno, senta, io bevo vino di famiglia, nel senso mio padre produce 1000 litri all'anno e vorrei sapere di cosa state parlando, perché il vino, il mio vino fatto con l'uva e senza nessun additivo dentro cambia già sapore cambiando altitudine, cambiando. Io vorrei sapere il vino comprato in bottiglia, anche in produzione di migliaia di bottiglie, come fa a avere, a mantenere la stessa colorazione, lo stesso sapore, a non subire variazioni, ad avere una scadenza di 2-3 anni. Bene, bene, guardi, abbiamo capito ecco. La domanda è interessante, la rigiriamo. Secondo Ricci, presidente di Caviro. Come si fa a mantenerlo? Queste direi che sono tecniche abbastanza diffuse, non sia o con la pastorizzazione o col freddo si mantiene il prodotto. Con la microfiltrazione oggi è possibile eliminare tutte le sostanze che rimettono o che possono causare delle seconde fermentazioni, e quindi il prodotto che viene messo sul mercato è un prodotto neutro, un po' come il latte, come altri prodotti, che rimane così costante nel tempo. Bene, grazie. Io Gigi Piumatti, volevo chiederti questo. Visto che c'è questa crisi, sicuramente anche una crisi di consumo, e qui ho questo rapporto mondiale sul vino, c'è diciamo una riduzione di consumi nel mondo. Come vedi tu i vini di grande qualità, quelli che si posizionano molto, molto in alto e con dei prezzi molto alti? Sì, la crisi c'è. Io vengo da una zona che in questo momento, soprattutto per il Barolo, che costa molto caro, c'è stata una piccola flessione negli Stati Uniti e la si sente. E bisogna sempre cercare il massimo della qualità, ancora studiare su quello che si può fare sulla qualità, e poi molto probabilmente bisogna anche incominciare a produrre meno e non fare come in Italia, perché se un vino funziona incomincia a piantare barbatelle di nebbiolo o di altre uve un po' dappertutto, certo. In tutte le zone, anche quelle meno vocate, ecco, basta che siano nella denominazione. Bene, grazie a Gigi Piumatti, l'ultimo radioascoltatore, poi non possiamo più ascoltare nessuno. Stefano dalla provincia di Piacenza, veloce Stefano per cortesia. Sì, sarò brevissimo, diciamo. Allora, io sono un piccolo produttore della zona del Piacentino, ho una DOC dei vini piacentini, mi riferisco a Gotturnio, Malvasia, Barbera, ovviamente dei colli piacentini. Francamente io vendo un prodotto che costa 2,40 euro bottiglia e 2,40 euro bottiglia, francamente siamo tirati perché il vetro, il costo del vetro, un'etichetta in quadricromia, anche l'occhio vuole la sua parte, la capsula, il sughero e quant'altro, il tempo per l'imbottigliamento e soprattutto il vino che deve avere solo l'uva, o meglio dovrebbe avere solo l'uva, da noi ha solo l'uva, purtroppo l'uso dei solfiti ha preso anche il sopravvento, e mi scontro con concorrenti della mia stessa zona che, come diceva il radioascoltatore, il piccolo distributore Paolo della provincia di Cremona, dove vendono vino a 1,20 euro, 1,30 euro bottiglia. Bene, Stefano, io la devo interrompere, abbiamo capito, perché devo chiudere la trasmissione. Volevo solo ricordare che Piero Tantini dall'Australia mi segnala che c'è un grande trapasso. Proprio in Australia dal brick si sta tornando alla bottiglia. Credo che questo sia un dato che interessa a tutti. Grazie a Secondo Ricci, grazie a Piero Tantini, grazie a tutti quelli che sono intervenuti. Buon weekend a tutti da Davide Paolini.